Buongiorno a tutti, regà. Buongiorno a tutti. Freschi freschi, galli galli. Oh, che me sono in alligalli. Oh. Notte prega d'Agostino. Parti un po' con sto cammino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mica robetta amatoriale. Il cammino è Gigi D'Agostino. E il cammino, a regà, è Gigi D'Agostino. Il cammino è Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Fammi sta filtrare. Vuoi la cassa e la melodia? Cassa, dia. Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia, a Capriolo, vicino a Brescia, discoteca La Fattoria, dalle ore 22, lascia che sia. Cassa, dia. Cassa, dia. Cassa, dia. Cassa, dia. Penna e scrivi il numerino 3 3 3 6 4 4 6 7 6 6 2. Capito come? Siamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Novembre del 1789 nasce Cesare Balbo, uomo politico italiano. Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. È arrivato il pendolino. Gigi D'Agostino. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Apri, maestro. Novembre del 1925 nasce Marshall Thompson, attore. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Il cammino di Gigi D'Agostino, mica non c'è. Oh, su che succede? Gigi D'Agostino, vabbè, scietto. Dai, regà, mosse suda, mettiamo se statuta. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. È il cammino dei Gigi D'Agostino. D'Agostino suona Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22, lascia che sia. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. storia, domandati perché, ricerca nella memoria, quello che fu di te. Di ogni arte è l'amore. Il valore e la portata di ogni arte saranno decisi innanzitutto dalla capacità d'amore dell'artista. Hermann Hesse. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Taradattata. Sali in sella, è suonata la campanella. We're bombing, are offering a program of dance music from the bombing. arrivato il folclorista. Dai regà, tutti in pista. Sulle mani. Dai un po', non fa l'indiano. Mandare i vostri sms 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Cassa e melodia. Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia. A Capriolo, vicino a Brescia. Discoteca La Fattoria. Discoteca La Fattoria. Dalle ore 22. Lascia che sia. Per la prima volta, lasciati andare. Lasciati andare. Per la prima volta, lasciati andare. Lasciati andare. Per la prima volta, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare. Per la prima volta, lasciati andare. Capito come? Il 27 novembre del 1942 nasce Jimi Hendrix, chitarrista statunitense. Dai e poco sta cassa. Capito come? Ovvio. Novembre del 1895, Alfred Nobel sottoscrive il suo famoso testamento con il quale istituisce quei riconoscimenti oggi noti come premio Nobel. D'Agostino, musical, mental. Gigi D'Agostino, musical, mental. Un DJ con le pal. Allora sesta, c'è la musica che pesta. Dai un po'. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Il 27 novembre del 1922, Howard Carter e Lord Carnarvon diventarono le prime persone dell'era moderna ad entrare nella tomba del faraone egiziano Tutankhamon. Agi, ma secondo te che gli hanno detto quando hanno visto in faccia il faraone? No, la pota. Sì, o la pota, secondo me sono scappati su una rota. Bravo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. I love the music. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. M2O, musica allo stato puro, tarivire sicuro. Questo programma musical mental, ole, me gusta mucho macho, e che caccio. Sì. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, sì, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria, per Gigi D'Agostino. Fermamosi un momento. Parte lento violento. E vi... un momento. Giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona Pavia. Discoteca Metropolitan a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Se riparte maestro, Corteatro e il burattino. Gigi D'Agostino. Che su Gigi sa suona, sa canta, sa ballo. Ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. E ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. Ma ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. Perciò e pertanto tu stammi. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. Conosce morte, poiché l'amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, poiché l'amore fa rinascere la vita nella divinità. Emily Dickinson. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Why am I leading the lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Do you need me to say goodbye? Don't forget about me tonight, 'cause my heart is not going to die. Just a love I could not deny. You will listen to me for. Be ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Esiste un disastro più spaventoso che la morte dell'immaginazione. George Meredith. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, beh, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Quando che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamo un taglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Per il cammino di Gigi D'Agostino devono essere complete di mittente, destinatario e del tuo pensierino. Quindi attenzione, non sbagliare l'operazione. E come disse Amleto, formula la dedica in modo completo. Il cammino di Gigi D'Agostino è una musica che unisce. È una musica che non si sente superiore a nessun'altra musica. Yeah.